Questo programma è presentato da Spettro Records. Ciao ragazzi, finalmente mi hanno fatto uscire, mi trovo da Firenze Free, però questa volta siamo nella Bologna, Bologna vera, la Bologna comunista in via del Pratello. Stiamo trasmettendo dalle frequenze di via del Pratello al 4 quarti. Sono molto felice, ma anche se devo cercare di far andare. A tutti per la splendida accoglienza che mi avete fatto qua da Piazza dei Tribunali. Mi siete venuti ad accogliere a braccia tese, a braccia aperte come una vena. E quindi io vi voglio ringraziare e voglio rinnovare l'appuntamento il 22 di aprile, sempre allo Sferisterio, dove presenteremo Kendale. Un nuovo mondo ci aspetta, compagni. Un mondo fatto di zero privazioni, di tutto in comune, una comunità di intenti. Grazie soprattutto per l'accoglienza, siete venuti in tanti, avete portato un po' di gioia nel mio cuore. Volevo ringraziare anche i Venis che sono venuti a trovarci in studio e volevo presentare appunto il pezzo Venis che hanno fatto. Volevo ringraziare il nostro amico Juge Reda, che oltre ad avermi portato sicuramente dell'happiness, come dice lui, o non Reda, che mi ha portato una pallina bianca, ha fatto un pezzo di un genere di cui io non ero un grandissimo fruitore, ma che mi sta entrando nel cuore. Dicono che sia un po' dubstep, un po' hip hop, rap, ed è una deriva che mi piace. Mi piace ascoltarlo insieme a Taio Toshi, quindi ringraziamo i Venice, ringraziamo Reda e Taio Toshi. Ascoltateci sempre sulle frequenze free, 105.g, frequenza libera, dopo Radio Alice, Baby Radio, l'unica radio che dà voce a chi voce non ce l'ha. Hasta la victoria, compagno. Ma volevo dirvi che comunque lo denuncio quel pezzo di merda di Mauro, non finisce qua, lo porterò in tribunale, poi va a finire come quella brutta storia di Milano che sapete è venuta fuori oggi, perché la giustizia deve essere free, deve essere libera, non è giustamente Gargiulo, la Salvatore Gargiulo, quello che hanno messo in bancarotta fraudolenta, tirato fuori il ferro, gliel'ha puntata alla magistratura. Quello è un colpo basso alla magistratura italiana, è un golpe a Milano, bastardi. Quindi io ve lo volevo dire, sono felice adesso di essere libero. E Mauro da Padova, stai attento perché ti verrò a cercare. Comunque volevo riprendere un po' il palinsesto che avevamo lasciato da parte. Mi ha sostituito degnamente l'amico di Palermo Alessandro, DJ Resonance, che saluto. Volevo riprendere con una frase che sta a cuore a tutti. Jack Taglierino urla che non si servizia un paperino. Paperini, siamo tutti all'ascolto, compagni paperini. Ever since I was born, I cross, dressing at the corner. Businessmen walk by, they get a boner. But oh, look, there goes a homophobe, caught in the wrong time and place on the globe. I keep my dick concealed. Then, in the backseat, it gets revealed. Now, ruthless is Lucifer, your asshole getting looser and looser. For my dick's been conditioned to damage a fruit juicer. Your balls be quaking from the shaking invasion across the nation. Make them talk around. Who's the sucker now? What's up? Next time, think twice before saying faggot. That shit is whack, you better kill yourself or bag. Come the next morning, you're feeling dopey and full, but then your bowels talk like you had Ethiopian food. Now don't you be looking for payback, cause we'll always end up with something stuck up on your ass crack. Last two guys who tried lost a lot. Scott 69 style crucified. Mi chiedono cos'è questa storia di Jack Taglierino che non si servizia un paperino. No, non mi serve. Jack Taglierino praticamente è famoso perché negli anni 90 a Roma sfregiava le signore con le pelline, un po' anche le handicappate, tutti con una lametta, ed è questo ha preso il soprannome di Jack Taglierino. Non si è visto un paperino, un film di Lucio Fulci, molto bello, vi invito a vederlo. Quindi io in comunità comunque mi ha mandato un sacco di metadone, e adesso scusate, parlo un po' in fretta, ma perché non so la sinapsi giusta per parlare. Comunità Muccioli si spacciava per Jack Taglierino, infatti ne ha seviziati pezzi di merda, ha mandato anche i preti a fare la benedizione la domenica. Comunque ora sono uscito, sono con i miei amici, con Ode, Antonio Lupolo. Stasera proveremo a intervistare. Ah, ci sarà un servizio di Ode poi, che è andata a Barcellona e ha dei contributi dalla strada anche nella Catalogna, quindi mi raccomando, ascoltate le puntate future perché ci sarà da divertirsi sicuramente. Siamo qua davanti a berci della birra, ci stiamo divertendo, siamo al 4:15, quindi se ci volete raggiungere è qua che daremo inizio alla seconda reunion per Kendale, quindi mi raccomando, Kendale. intervisteremo DJ Balli, un autoctono comunista di Bologna, e gli chiederemo qualche informazione su come passa la sua vita senza lavorare, perché non ha mai fatto un cazzo, quindi c'è da apprezzarlo. E tenete conto, lui è un compositore, un musicista, un DJ, e nonostante non abbia mai fatto un cazzo riesce a vivere bene. Non si fa perché viene da, come cazzo si chiamano, gli straight edge, non so, tutta quella subcultura. Io purtroppo non ci sono passato perché mi sono sempre fatto tantissimo, ho sempre bevuto, però loro non bevono, non fumano, credono nei vegetali, e di qua ci possiamo ricollegare con appunto la procedura che ci porterà alla costruzione del nuovo paese. Ci vogliono persone come DJ Balli, perché effettivamente bisogna essere tutt'uno con la natura. E tu mi rispondevi: uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba uba. Sessualismo è una cosa peccato. Sessualismo è una cosa peccato. Sessualismo è una cosa peccato. Sessualismo è una cosa peccato. Vedi anche tu quello che vedo io? Un'anitra che parla! Sì, la vedo anch'io! Ne avrò presa troppa stasera! Buona salute! Chiode non si sente molto bene, ma come dagli torti stati in strada! Dopo intervistiamo appunto Riccardo Balli direttamente da Via del Prateno, ma Via del Prateno non me la, io da un po' che sono stato in comunità, quindi non me la ricordavo così soviale, piena di gente, un posto veramente bello. La gente poi si sente libera, può bere, può fumare, una situazione veramente infernale, come ci piace a noi. Ci sono un sacco di persone, ragazze. L'unica cosa qua non riesco a trovare. Avevo nascosto nel 1999, proprio qua al 4 quarti, a quello di Techno Mobile Squad, gli avevo lasciato dei barili d'olio che però non sono più stati trovati. Quindi pensavo di rifare un salto e pensavo che appunto per fare questa reunion di Kendale mi sembrava il posto adatto, quindi verrà fatta il 21 aprile, seconda reunion. Dobbiamo decidere fra Nuvoleto, un posto a Nuvoleto, che esiste, forse un po' pubblicità spicciola. Però c'è il nostro amico Antonio Lupolo che gestisce un bar a Nuvoleto e vogliamo farla lì. Comunque faremo come di consuetudine pubblicità, passerà materiale informativo, flyer, locandine, verrete un po' tappezzati. C'è Odiche in fermento, qua ci sono un sacco di birre, ci si diverte, la musica è buona, la gente ha capito che la giustizia deve essere free, quindi tutti nei tribunali e a far capire a quei bastardi che insomma non è che puoi privarmi di tutto ma non della mia vita, quindi vi spariamo in bocca, bastardi. A tutti i nostri ascoltatori, compagni, di non mollare mai. Io ho passato veramente un brutto periodo in comunità a causa di Mario da Padova, bastardo, però sono comunque riuscito a non mettere da parte i miei hobby, le mie passioni, quello che mi nutre, e la musica insieme alla radio sono le mie passioni. E ho fatto un pezzo che si chiama Fuoco e fiamme in comunità e non sono molto autocelebrativo, ma questa volta lo metteremo su perché secondo me merita. Fuoco e fiamme in comunità. Con la di drop come già. Vienimi a prendere quando ci sono qua. Se fuori piove ma c'è il sole in di pietra. La comunità a misagna è un poco dura. Voglio andare in altura per vedere se io non mi buco più, ma fa lo stesso perché ho i piedi gonfi dalla roba. Io non bevo whisky e soda. Comunità, comunità di merda, non so per vita è la comunità. C'è il mio allievo Patrizio, che è un artista fiero. Portami da Piero. Porto per Podemos in Spagna, ma non per quel fascio di Beppe Grillo. È arrivato anche DJ Balli. DJ Balli, presentati. Ma è una questione, capisci, di mettere a tempo due fonti diverse provenienti da due canali differenti, però senza il sync. Si presenta con questa frase d'effetto il nostro Riccardo Balli, noto a Bologna per appunto stimatissimo per, soprattutto per il suo fare musica e anche per le sue idee anarcoide. Lui non beve, non si droga. Come si definisce pure questa subcultura, Riccardo? Guarda, però è roba passata per me. Però diciamo la subcultura che diciamo vedeva, opponeva a un punk nichilista quello più consapevole antisistema è Straight Edge. Ma tu hai detto che apparteneva al passato, no? Sì, no, io non sono Straight Edge. E quindi adesso ti fai. Beh, mi sembra che no, perché no, è una questione logica, è una questione di logica, giustamente. Compagni che si ascolta si fa. Ok, ok. Beh, allora io mi voglio sentire sinceramente è Nazional Popolare, mi faccio. Bravissimo. Ok. Dopo manderemo qualche pezzo di DJ Balli in radio, che così vi facciamo sentire che cosa. Tanto abbiamo capito che si fa e questo è bello. Ricordiamo che trasmettiamo dalle frequenze Free 105 qua in via del Pratero al 4 quarti, dove DJ Balli ha anche un negozio di dischi. Parlaci un po' dei tuoi dischi, Riccardo. Dischi che riguardano l'eroina sarebbe ancora meglio. Guarda, riguardo l'eroina in particolare c'è un ultimo disco, Extra Tone, che praticamente trattasi di musica sopra i 1000 bpm, battiti per minuto, no? Cioè praticamente quando la battuta, no? La cassa, non è presente la gabber, no? Musica hardcore, veloce, qua troviamo un'iperbole totale, cioè talmente veloce che non senti più la cassa, senti soltanto drrrr. C'è, capito, una sorta di musica algebrica che secondo me dà effetti paragonabili a quelli dell'eroina. Quindi è un po' come avere un orgasmo ad ascoltare quella musica. Sì, o l'esatto contrario, ecco. Sì. Cioè diciamo che c'è questa coincidenza oppositorum, questa coincidenza degli opposti. Non so se seguite le mie citazioni colte, quindi no, mi sento. Ti seguiamo perfettamente. Sì, perché ti vedevo annebbiato, ecco, in difficoltà. Sono uscito da mesagne. Esatto. Sono andati bene gli esami, sì, tutto a posto, tutto a posto. Il glucosio è proprio bene. Ecco, il glucosio è proprio la chiave dell'extra tone, capito? Che è questa musica matematica, algebrica, che praticamente avvolge i partecipanti una sorta di fascio di BPM, non volerci vedere connotazioni politiche, non volerci vedere connotazioni che le suggeriscono, perché ti vedo in ritardo, ti vedo un po' non ti vedo proprio sul pezzo. Dove esserci un altro oggi, ma... Ok, lo stai sostituendo. Ok, mi stai sostituendo. Devo dire, egregiamente, sì, sono contento. Poi in nome anche del nostro rapporto personale, di amicizia, no? Delle tante cose uscite, passate assieme, no? Certo, ragazze in comune, insomma. Certo. Sì. Certo. Quindi io vedo che Sonic Belligeranza, in particolare con l'ultima uscita che ormai risale al 2012, perché dopo l'uscita di questa non abbiamo fatto più altro, tante sono state le vendite, e cioè, capito, è stato proprio un crack. Un crack, non ci fa neanche pensare. Ascoltami Riccardo, ti volevo chiedere, io non so, essendo mancato per più di un mesetto, non ho ben chiara la situazione. Mi hanno detto che hanno chiuso l'aula C, quella dell'università di scienze politiche. Ah, ho letto adesso che mi... Vuoi dire qualcosa? Ma è solidarietà ai compagni di ogni origine e provenienza, soprattutto no, se sono negri. All'aula C, qualcosa in meno. Ma guarda, io ho visto oggi sulla pensilina del Calvino anarchici scritto in grosso. Con l'aula, ma cos'era? Con l'aula c'era quella che era occupata da 20 anni? No, era occupata da Manuel. Da Manuel, quello senza braccio. Ah, cazzo, beh, allora come faceva a occuparla se era senza braccio? Ah, occupava tutto lui. Coi piedi. Lo stalker. No, quello dopo intervisteremo, magari in futuro avrei piacere anche di intervistare uno di quei ragazzi che suona con te, quindi adesso non voglio anticipare niente. Suonava con te. Ascolta Riccardo, ma parlaci un po', io voglio capire come ti muovi all'interno di questa giungla disorganizzata, di questa città, cioè cosa fai durante il giorno, dove suoni, cioè voglio... un po' la mia geografia. Un po' la tua geografia, sì. Ma guarda, io... Cioè, anche perché non ti droghi, quindi tutto questo un po' mi lascia senza parole. No, capisco. Guarda, diciamo che, sai, ho anche la fortuna di fare un'attività così non... che non deve rendere conto a nessuno, no? Quindi la mia giornata è molto auto-organizzata, nel senso che il problema è avere un social network, un'email. Io non ho la connessione a casa apposta. E quindi vai sala borsa. Quindi sì, no, ho tutta una serie di uffici pubblici, dalla sala borsa all'archiginnasio, al Bolognetti, all'URP, anche questo stesso è un altro ufficio, quello sarà. Ricordiamo che trasmettiamo in diretta da via del Pratello 96 e dal 44. Frequenza free. Sì, sì. Stanno anche entrando frequenza delle persone. Free. Ciao. E vedi, anche frequentato anche da ragazze, insomma. Ma tutti. Cioè, come ti definisci? Sì, politicamente come ti definisci? Comunista, anarchico, progressista, non lo so, ti piace Berlinguer? Dimmi tre caposaldi, i tuoi tre caposaldi a livello politico. Berlinguer mi sta anche simpatico, guarda, se devo dirti una. Cosa sei tu? Boh, faccio fatica, diciamo che un po', dai... Cerchiamo di vedere la realtà, insomma, orientarci, no? Con un po' di ironia in questa giungla difficile da controllare, non cadendo facile preda di slogan, poi sai, una certa età ce l'ho, passati 40, quindi... Ah beh, che tu sei un po' tempato, Non esagerare adesso, dai, se no me la prendo con quel cappello bianco, dai. No, ma infatti anch'io la mia, cioè, quindi non... Capisci? E quindi così vedi, arrivano anche i miei soci, è una sorta di multinazionale, abbiamo qua in piedi, capito? Roll. rapporto hai avuto tu negli anni di piombo con i Punk Bestia? Cioè, negli anni di piombo parliamo poi di cui. Sì. Magari anche 10-15 anni fa. Sai, essendo un po' dentro la sottocultura come DJ della techno, no? Mi sono trovato con questi personaggi sempre, un po' in situazioni di tutti i tipi. Quindi magari aspetta, io c'avevo questa idea, no? Non tanto del Punk Bestia, ma del Raver, no? Quello classico, sì, della Piazza Verdi. Sì. Paragonato al Boy Scout. C'è questa idea un po', se vuoi, un po' surreale, no? Che questo è derivato anche dalla musica che suona, che è una musica magari particolare, no? Che magari alle feste techno classico con la K troppo complessa, perché lì ci vuole del bella techno, boom boom boom, dritta, dritta, per far calare, non è una musica, serve qualcosa per far calare la sostanza, capito? Cioè la musica è un contorno, ecco. Invece andare lì e suonare delle cose pensate con delle tecniche eccetera, questi, cioè, mi è arrivato anche un rave a Verona dell'acqua, una secchiata d'acqua, capito? Però era giugno, faceva caldo, quindi c'è stato, sono rinfrescato, sono andato avanti imperterto. Però questo per dirti che quindi c'è questo rapporto col Punk Bestia, anche di ironia, di sfottò, capito? Una sorta, cioè, come i raver vanno nei boschi, lo fanno anche i Boy Scout, sono la stessa cosa. C'è questo paragone tra il drogato dei rave e il drogato degli scoiattoli, in sostanza. Perfetto, perfetto, vedo che hai colto il punto. Perfetto. Ti chiedo, tu cosa ne pensi di quell'infame bastardo di Marco Biagi? Guarda, l'hai detto con un tal vigore, non ho risposto, mi hai spiazzato. Non so cosa dire. Ti chiedo, visto che fai il vago, almeno voglio, poi concludiamo l'intervista. E questa prima parte ti chiedo di citarmi i tre vinili più belli che hai ascoltato, ma anche roba degli anni 70, sai che io sono un affezionato degli anni di piombo. Beh, a me è piaciuto, quello è addirittura nella fine anni 70, Piper. Se vuoi dare un consiglio anche proprio come selecta musicale per chi ci ascolta. Ah, sì, sì, beh, The Piper at the Gates of Dawn, il primo di Pink Floyd, sicuramente, sai, con Syd Barrett, è valido, visionario, psichedelico. Poi, è difficile, scegliere. Altri due me ne devi trovare. Altri due, altri li trovo. Beh, te ne citerò, beh, ti cito. Uno, mi faccio pubblicità, ti cito questo Extreme 8 Bit Terror, perché ne sono rimaste un po' di copie, ne ho stampate troppe, quindi le devo vendere. E comunque è molto bello, è un picture disc, sono tutti pezzi metal rifatti col Game Boy. Pipi dagli Iron Maiden, Napalm Death, gli Slayer. Sì, cioè, esatto, è proprio, direi che è il sound del deviato. È il sound del deviato. E poi una. Li ho già detti? Li ho già detti tutti? No, due ne hai detti. Due, ne ho detti due. Poi cosa diciamo, uno è la Spettro Record, così mi dà la bustarella. E beh, della Spettro Record, sono deciso tra due. No, bella la copertina di quello, come si chiama, la giapponese, bella molto la copertina, sì, però il contenuto meno, cioè la copertina di uno è più il packaging di uno e il contenuto di un altro, capito? Perfetto, ringraziamo Riccardo Balli, ci risentiamo tra poco e grazie Riccardo. Grazie a voi, ciao a tutti. Baby Radio, frequenza free.